GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 10 feriti in uno scontro tra 4 auto a Tolmezzo, forse causato da un sorpasso azzardato, 16 coinvolti in totale. Altre 2 persone finite in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in un altro incidente sulla A23 tra Carni e Gemona. Partito in serata dal porto di Trieste alla volta di Mersin in Turchia, il nuovo carico di aiuti italiani destinati alla popolazione turca dopo il completamento delle operazioni di carico dei materiali e delle attrezzature donate dalle regioni. Siccità, la grande sete del fiume Tagliamento già ridotto a meno di metà. Nel sottosuolo il trend delle falde era in risalita, ma a febbraio non è mai piovuto e ora è il livello inferiore addirittura a quello dell'anno scorso. Che cosa sta accadendo e cosa accadrà nel mondo nei settori dell'economia, della società e dell'ambiente? Questo è il contenuto del rapporto Fondazione Nord-Est per far riflettere sui cambiamenti in atto e coglierne le opportunità. Il rapporto sarà presentato stamattina a Udine. Domenica di Carnevale, grande festa a Muggia con il corso mascherato, le bande musicali e migliaia di maschere. A vincere la compagnia Brivido con la sua rappresentazione dei carnevali di tutto il mondo. Al Carnevale di Maniago sfila il carro con la scritta Cospito Libero. Sullo striscione compariva anche Esercito al 41 bis, un sillogismo tra la condanna all'anarchico e i militari che distrussero un pollaio con un colpo di mortaio. Maschere fatte uscire dal corteo e già identificate, ci sono già le prime reazioni politiche. In 850 partecipanti ieri alla Marcia dell'Amore al Parco San Valentino di Pordenone, dedicata agli innamorati, ma non solo. La magia dei Blumari di Montefosca, giovani con costumi bianchi, alti cappelli e campanacci, un rito antico che si rinnova. Sappada applaude la sua campionessa, il grazie dei tifosi a Lisa Vittozzi dopo lo storico oro nella staffetta femminile, i 3 bronzi al mondiale di biathlon in Germania. Questa sera in programma la grande festa organizzata dai suoi fans. Basket, vittoria in A2 per entrambe le regionali, l'Apo Old Wild West Udine batte agevolmente Ravenna, la Gesteco Civitale dopo 3 stop consecutivi si impone in trasferta a Ferrara. Le 7:20:20, buongiorno da Giorgio Bejarz e Maria Spezia per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 20 febbraio. In apertura, come sempre, diamo uno sguardo alla situazione attuale del meteo con le previsioni per oggi. La nuvolosità è variabile sulla regione, queste le temperature registrate poco fa. A Trieste, Udine e Pordenone 8 gradi, a Gorizia 7 gradi e mezzo, a Forni di Sopra e Tolmezzo 0 gradi, a Piancavallo meno 1 grado, a Tarvisio meno 1 grado e 5 decimi, a Sappada meno 3 gradi. Sul Monte Lussari 0 gradi, sul Monte Zoncolan 1 grado e poi scendendo sulla costa a Grado 8 gradi e 5 decimi, a Lignano 9 gradi e mezzo. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, previsione in parte incerta, più probabilmente cielo in genere nuvoloso su pianura e costa con foschie e nebbie, specie di notte e prima mattina, ma con tendenza a qualche schiarita in mattinata, specie a est. Sulla zona montana cielo poco nuvoloso, in prevalenza per nubi ad alta quota. In serata nuovamente coperto dalla costa alle prealpi. In apertura dunque la cronaca, 10 le persone che sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto nella serata di ieri a Tolmezzo, lungo la statale 52 all'altezza della cartiera. Per caso è ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, 4 automobili con 16 occupanti in tutto, tra cui un minore, sono rimaste coinvolte nello schianto causato probabilmente da un sorpasso azzardato. Nell'impatto una vettura è finita fuori strada in un fossato. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, gli infermieri della SORES hanno inviato sul posto l'ambulanza da Paluzza e 2 ambulanze dall'ospedale di Tolmezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale di Tolmezzo in condizioni definite non preoccupanti. Ancora cronaca, sempre nella serata di ieri c'è stato un altro incidente stradale lungo l'autostrada 23 nel tratto compreso tra Carni e Gemona del Friuli in direzione Gemona dopo la galleria del lago. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Amaro, 2 vetture si sono scontrate. Nell'impatto una è carambolata all'esterno della sede stradale finendo tra l'autostrada e la regionale dopo un volo di circa 30 metri e poi ha preso fuoco sul posto 2 ambulanze. 2 persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo all'ospedale di San Daniele del Friuli. Sul posto il personale dell'autostrada per la vettura rimasta in A23, i vigili del fuoco e soccorso stradale per l'altra vettura finita all'esterno della sede stradale. Ed è stato ricoverato in gravi condizioni un uomo di circa 40 anni che ieri sera, attorno alle 22, mentre viaggiava su uno scooter, ha perso il controllo per cause da chiarire e si è schiantato contro un palo lungo via Colugna a Feletto Umberto. Si trova ricoverato all'ospedale di Udine. I vigili del fuoco sono al momento impegnati a Ragogna per mettere in sicurezza un'abitazione prefabbricata in via Tagliamento in cui si è verificato un principio di incendio che ha causato l'intossicazione di un uomo di 63 anni, ora in ospedale per accertamenti. A causare le fiamme, ora già domate e sviluppate in un'intercapedine nella parete, il collegamento di più stufe a legna in un'unica canna fumaria. L'allerta è stata lanciata alle 4:30 da uno dei due abitanti della struttura rimasto illeso. Sul posto i volontari dei vigili del fuoco della stazione di San Daniele. È partito in serata dal porto di Trieste alla volta di Mersin, in Turchia, il nuovo carico di aiuti italiani destinati alla popolazione turca dopo il completamento delle operazioni di carico dei materiali e delle attrezzature donate dalle regioni e dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile dopo il tremendo appunto terremoto che ha colpito il paese. Nei 15 container trasportati a Trieste dall'hub logistico della protezione civile del Friuli Venezia Giulia, anche tende, una cucina da campo, servizi igienici completi di docce, materiali elettrici e gruppi elettrogeni. Il carico, dopo circa 60 ore di navigazione, sarà consegnato alle autorità locali turche. Sempre nella serata di ieri è approdato al porto turco di Mersin la nave cargo partita lo scorso 16 febbraio dall'Italia con 35 container di beni destinati all'assistenza della popolazione. Sono atterrati ieri a Pisa e Pratica di Mare gli aerei di Guardia di Finanza e Aeronautica Militare che hanno riportato in Italia il contingente dei Vigili del Fuoco che ha operato in aiuto alla popolazione turca dopo il tremendo terremoto. Nella missione coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile del gruppo hanno fatto parte due vigili del comando provinciale di Gorizia e uno di Pordenone. E ancora allarme siccità per quella che si sta ormai delineando come una vera e propria emergenza qualora la situazione dovesse ancora perdurare. Il deficit di precipitazioni va dal 25 al 50% a seconda delle zone e a risentirne sono sia la portata dei fiumi sia le falde. Siamo andati a verificare la portata del fiume Tagliamento a Gemona. Alla centenaria presa del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana Ospedaletto di Gemona, la portata del Tagliamento è addirittura minore rispetto all'anno scorso, anno di siccità. Renzo Carnielutti, custode da 23 anni, indica che sono almeno tre stagioni che va così. Con poca acqua anche le turbine idroelettriche non lavorano. Adesso siamo ai minimi storici, dovremmo avere sulla portata del canale principale 18 metri cubi, invece ne abbiamo 7. E rilascio per la regione sul fiume Tagliamento ne abbiamo 10. E dovremmo avere una portata di almeno 50-60 cubi. A febbraio non è mai piovuto. Quest'inverno in montagna l'ARPA ha registrato dal 25 al 50% di precipitazioni in meno rispetto alla media del periodo, un deficit più accentuato nella fascia occidentale. L'iter tecnico amministrativo per i nuovi mini invasi di acqua piovana, finanziati con 18 milioni di euro dalla regione, non sarà breve. Verosimilmente non vedranno la luce prima di un paio d'anni. Ma che succederà se non dovesse piovere a marzo e aprile? È un problema serio per l'agricoltura, ma serio, oltre che per l'energia elettrica, da ambo le parti. Alla luce di un clima ormai mutato, il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna sta dialogando con i concessionari privati dell'idroelettrico per una maggiore elasticità nella gestione della risorsa idrica. Bacini e canali sono infatti collegati. In ottica preventiva sarebbe importante tenere i serbatoi un po' più pieni adesso, modificando le tempistiche del rilascio dell'acqua verso la stagione primaverile, quando si semina. Massimiliano Zanet, direttore generale del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna. È chiaro però che se l'utilizzo idroelettrico avviene in anticipo rispetto alle esigenze irrigue, in casi come quello dell'anno scorso, spero non come quello di quest'anno, è ovvio che ti comporta non avere l'acqua quando l'irrigazione, ovvero l'agricoltura, ha bisogno. Gemona, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Che cosa sta accadendo e cosa accadrà nel mondo, nell'economia, nella società, nell'ambiente? A queste domande risponde il rapporto Fondazione Nord-Est, inteso a far riflettere sui cambiamenti in atto e coglierne le opportunità. Appuntamento Udine alla Torre di Santa Maria, in Largo Carlo Melzi, alle 10. Tra i relatori il ricercatore della Fondazione Nord-Est, Gianluca Toschi, a cui abbiamo chiesto una sintesi del rapporto. Abbiamo chiamato il Nord-Est la locomotiva che traina l'Italia per tanti anni I dati evidenziano che questa locomotiva negli ultimi 20 anni ha corso molto meno velocemente rispetto ad altre locomotive, cioè ad altre regioni in giro per l'Europa, come il Bayern, il Baden-Württemberg e altre regioni che hanno saputo crescere molto di più. Il rapporto parte da questa considerazione e cerca delle risposte. Una delle principali risposte è che nei prossimi anni avremo a che fare con una parola d'ordine che si chiama attrattività. Le nostre regioni, Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Trentino Alto Adige, deve saper tornare ad attrarre talenti, lavoratori che sono cruciali per affrontare fondamentalmente due grandi sfide, che sono quella della digitalizzazione e della sostenibilità. Questo rallentamento è in parallelo al resto dell'Italia? Il Nord-Est continua a correre un po' più velocemente del resto d'Italia, ma il Nord-Est vuole vincere il campionato italiano o vuole confrontarsi con le regioni trainanti in Europa? A noi pare decisamente più importante il secondo orizzonte e quindi è corretto che ci si interroghi su come far tornare questa locomotiva che oggi, se vogliamo, ha rallentato, a farla correre come le altre regioni d'Europa. Quali gli ostacoli maggiori? C'è un problema sicuramente legato ai talenti. C'è una spada di Damocle che è la demografia, che non è solo legato all'invecchiamento della popolazione, ma ovviamente anche al fatto che si assottigliano anche le fasce di popolazione in età lavorativa. Oggi ricorre la giornata nazionale del personale sanitario, socioassistenziale e del volontariato, che sarà celebrata in unità dalle varie professioni, incluso l'ordine di chimici e fisici. L'evento celebrativo è previsto a Roma, presso l'Aula Magna della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, dalle 9. L'evento sarà accessibile in streaming sui canali social e i siti istituzionali degli enti organizzatori. Nella sfilata di carri di ieri del Carnevale di Muggia, vincitore è stata la compagnia Brivido con la sua rappresentazione dei carnevali di tutto il mondo. Seconda classificata la Trottola, terza posizione per la compagnia Bellezze Naturali. La cittadina rivierasca è stata, come da tradizione, presa d'assalto da spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero. È stato il carnevale della ripartenza della vita e della festa dopo la pandemia. Quasi tutte le 8 compagnie muggesane hanno scelto temi legati al post-Covid e alla libertà. Quella libertà diventata preziosa dopo i lockdown che hanno fermato per 2 anni anche lo stesso carnevale di Muggia. I primi ad avviarsi sul percorso, i Bulli e le Pupe, vincitori dell'ultima edizione, quella del 2020, hanno scelto il rumore come filo conduttore della loro sfilata, contrapposto al silenzio che regnava durante la pandemia. Di fronte alla giuria hanno ricostruito il caos di una scuola piena di studenti e di un allegro cantiere. E proprio il rumore, inteso come musica e gioia, ha segnato questo carnevale da 2000 maschere, pieno di partecipanti arrivati da tutta Italia e non solo. Da dove viene? È dalla terra di mezzo! Finalmente, dopo anni che era chiuso, si riesce a vivere un po'. Molto bello per i bambini, anche per gli adulti, ma più per i bambini. Ah, bellissima la sfilata! E l'atmosfera in generale a Muggia, dai. Sono dei mega pulcini e ci piacevano. La compagnia della Bora ha presentato il tema delle pulizie di casa, anche qui con un pensiero agli anni del Covid, quando passare l'aspirapolvere era diventato un passatempo alla moda. A colpire il pubblico è stata anche Longia, con il suo carro principale, con un gigantesco Mozart nei panni di un DJ intento a colorare la musica. I Mandrioi si sono esibiti in una parodia della Divina Commedia con le anime dannate su ritmi rock, mentre la Lampo ha scelto il tema Guardie e Ladri con un grosso Lupin sul carro. La compagnia Bellezze Naturali ha fatto sfilare i suoi pagliacci, allegri e spaventosi. La Brivido ha omaggiato i carnevali di tutto il mondo, dalla Colombia a Venezia, per finire con un pianeta Terra intento a festeggiare sul carro principale. A chiudere il corteo la Trottola, che ha ricostruito una situazione da casinò e celebrato Las Vegas. Da Muggia, Livia Liberatore, TGR FVG. Ed è già un caso anche politico, quello delle maschere a favore di Cospito sfilate al carnevale di Maniago. Alcune persone travestite da galline che trainavano una gabbia con dentro un uomo con abiti militari e la scritta Esercito al 41 bis, Cospito libero, sono state fermate da carabinieri e polizia locale, fatte uscire dal corteo e già identificate. Il carro era stato autorizzato a sfilare e agli organizzatori era stato descritto come a tema pacifista. Le maschere erano precedute da un finto carro armato con cannone annodato, che si riferiva all'incidente di qualche anno fa in cui una cannonata sparata durante un'esercitazione da militari dell'esercito colpì e distrusse un pollaio a Vivaro. Erano 15.000 le persone che stavano seguendo il carnevale di Maniago. Quando il carro è arrivato nella piazza principale del paese, gli organizzatori della manifestazione hanno subito allertato le forze dell'ordine e preso le distanze dall'iniziativa. Già arrivate le prime condanne sul fatto, commentando quanto accaduto, l'onorevole Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia ha definito vergognoso quanto visto sfilare in una storica manifestazione del Pordenonese. Lo Stato e i suoi uomini vanno rispettati senza provocazioni e strumentalizzazioni, sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ha concluso Loperfido. Doppia sfilata di carnevale anche nell'Isontino. A Romans è andata in scena la 57esima sfilata di carri allegorici, con in gara 9 gruppi mascherati e 5 carri. A vincere è stato il gruppo degli Amici del Quaiat, mentre ad aggiudicarsi il premio per i carri è stato il Joker del gruppo di Mediazza San Giovanni di Duino. Corteo allegorico e maschere di tutti i tipi anche a Savonia, con anche qui una grande partecipazione di pubblico. E anche oggi proseguono gli appuntamenti organizzati in occasione del carnevale a Gorizia, ritrovo alle 15 in Piazza Vittoria per il concorso mascherato abbinato ad animazione, giochi e bolle di sapone. A seguire alle 17.30 prevista la proiezione del film animato Taddeo l'esploratore e la tavola di Smeraldo al Kinemax. La 69esima edizione del carnevale mugesano prevede la questua di gruppi mascherati nelle case del centro storico e dei dintorni per preparare alle 17 in Piazza Marconi la tradizionale mega frittata. In mattinata dalle 10 alle 12, poi ancora dalle 15 in Piazza Marconi, sono in programma intrattenimenti con giochi e balli. Alle 16 in cartellone la novità di questa edizione, cioè la prima asta solidale, dove saranno assegnati maschere e oggetti realizzati dalle compagnie del carnevale per devolverne i proventi a famiglie in difficoltà. Seguirà alle 20 l'aperitivo musicale in maschera. A Stolvizza per il carnevale eresiano, cioè il cosiddetto PUST, appuntamento con il Pusto Bimbi Bim Bum Bam al Museo della Gente della Valresia dalle 14. In programma il laboratorio di costruzioni del PUST eresiano e quello di cucina per preparare le castagnole del carnevale. In locandina alle 16 la processione per le vie del paese e alle 16.30 la festa finale in piazza dell'Arrotino. Infine il laboratorio didattico organizzato dal comune di Cividale del Friuli in occasione del carnevale intitolato Sotto una pioggia di coriandoli, organizzato al centro Podrecca alle 15. E ieri è stata anche la domenica della Marcia dell'Amore di Pordenone, con teatro di questa manifestazione podistica il parco intitolato a San Valentino, il patrono degli innamorati. Signore, pronte per la Marcia dell'Amore? Certo. Non vi ha scoraggiato però il meteo? No, siamo ancora qua. Nonostante la piega fatta ieri, ma abbiamo il cappuccio. Si sono presentati in 850 domenica mattina al Parco San Valentino di Pordenone per partecipare alla 38esima Marcia dell'Amore. Siete venute a cercare l'amore in questa marcia? No, siamo già a posto. Siamo già ammogliate. Sì, sì, infatti. È la prima volta che lo fate? Io sì. No, io è già la seconda che faccio. È molto bella, fanno un bel giro, un bel percorso, è piacevole. Con la possibilità di vedere anche dei luoghi della città? Sì, certo, anche perché Pordenone è molto bella comunque, veramente. E così ci fa scoprire un po' tutto. La manifestazione podistica non competitiva di 6 o 10 chilometri attraversa le più belle aree verdi della città ed è organizzata dall'Associazione San Valentino. Che percorso farete? Onestamente dobbiamo ancora decidere. Che percorso faremo? Quello più breve, quello più lungo? Non lo so, decideremo man mano, forse quello più lungo. Siamo venuti diverse volte. È venuto con la moglie? Sempre con la moglie, sempre. Presente. Mi piace camminare e faccio quasi tutte le marce. Cosa le piace? Camminare, correre, natura e far festa. Arrivo in Piazzale del Mutilato con premiazioni alle coppie e ai single più giovani e più anziani. Luciana Pennelli, presidente dell'Associazione San Valentino di Pordenone. Si chiama Marcia dell'Amore proprio perché San Valentino è il protettore degli innamorati dell'amore e la Marcia è stata istituita come un momento per le famiglie, i giovani e anche i non più giovani, no, di ritrovarsi con questo spirito di benevolenza l'uno nei confronti dell'altro che ci auguriamo che duri sempre tutta la vita. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Più che una festa di carnevale, gli abitanti delle valli del Natisone lo considerano un vero e proprio rito legato alla natura e al passaggio delle stagioni. Stiamo parlando della corsa dei Blumari a Pulfero. I campanacci dei bovi legati dietro alla schiena con le corde per portare il fieno, la vestizione dei blumari è un momento di emozione collettiva tra le generazioni di Montefosca, costume bianco come la neve, cappello fatto con l'erba palut intrecciata a sorreggere i colori dei fiori, la simbologia della natura che si risveglia con la poesia del dialetto valligiano, i pistoc, bastoni appuntiti a rompere il ghiaccio e poi via alla corsa. I blumari devono essere tutti maschi, ragazzi celibi pronti a diventare uomini. È un'emozione. È un orgoglio ripercorrere le orme che di mio zio e di mio nonno. Mi scontento prima volta feu bumale motte fosca. Ma questa volta troviamo anche Don Alessandro, parroco di San Pietro e Pulfero. In qualche modo scapolo lo sono anch'io, anche se sposato con Santa Romana Chiesa, ma speriamo che per una volta la moglie chiudi un occhio, va? Il fazzoletto al collo veniva donato dalla fidanzata come pegno d'amore. Una volta le donne non potevano andare in giro, allora aspettavano i blumari per uscire, per vederli, per essere felici con loro. Offrivano le uova, un po' di salsicce, un qualche salame, chi era più ricco, e basta. Montefosca di Pulfero, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di un reperto che segna di fatto un evento storico come lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. A Udine è stata ritrovata la carrozza funebre che trasportò la salma dell'arciduca asburgico Francesco Ferdinando. Appartiene al comune di Udine dal 1931, ma ora un lavoro di ricerca ha consentito di scoprire che la carrozza conservata nei depositi del Museo Etnografico del Friuli è quella che accompagnò l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo in un tratto del suo ultimo viaggio. Era il 2 luglio del 1914, 4 giorni dopo l'attentato di Sarajevo che avrebbe condotto alla Prima Guerra Mondiale. Le salme dell'arciduca e della moglie Sofia erano state imbarcate sulla nave ammiraglia della Marina Asburgica verso il molo di San Carlo a Trieste. Di qui la ditta Zimolo le condusse su 2 distinte carrozze fino alla stazione, da dove partirono per Vienna per i funerali. Ma per lungo tempo di quello storico tragitto della carrozza non si è saputo nulla. Antonio Impagnatiello, dirigente del Servizio Cultura del Comune di Udine. Giunto qui non in quanto bene museale, ma in seguito a eventi semplicemente contrattualistici, e cioè dopo una diatriba tra il Comune di Udine e la ditta appaltatrice dei servizi di pompe funebri dell'epoca, è stata acquisita direttamente dal Comune di Udine ed è entrata a far parte del patrimonio. Non c'era nessun atto che documentasse tutto questo avvenimento storico e quindi, oltre che la bellezza del bene, anche la sua preziosità storica. A voler ricostruire con i documenti la storia di quella carrozza sono stati 2 curatori, Fabio Franz e Pamela Pielic, coordinati da Vania Gransinig. Fondamentale per identificarla è stato un album fotografico. Prima di essere esposta, tuttavia, la carrozza necessita di un restauro, il cui costo si aggira intorno agli 80-90 mila euro. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi si riunisce il Consiglio Comunale di Trieste, la scaletta dei lavori prevede all'ordine del giorno la delibera sulla variante numero 12 al piano regolatore, cioè quella collegata al progetto della cabinovia. In programma anche l'esito delle commissioni sull'acquisizione a titolo gratuito di proprietà privata adibita a uso pubblico posta in via dei Pagliaricci e via del Pinturicchio. Per gli appuntamenti politici odierni, il gruppo consiliare di Adesso Trieste presenterà domande di attualità a Trieste, in piazza Unità d'Italia, di fronte al municipio, alle 15. Le segreterie territoriali di Filte CGL, Fitte CISL, Will Trasporti, Faisa CISAL, UGL FNA e USB Lavoro Privato informano che i conducenti di Trieste Trasporti terranno oggi un sit-in di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della sicurezza stradale a Trieste, in piazza Goldoni, dalle 10 alle 12. Passiamo allo sport, iniziando dal biathlon. Dopo l'oro iridato di sabato scorso nella staffetta femminile, ieri una prestazione ben al di sotto delle aspettative per Lisa Vittozzi, che ha chiuso l'ultima gara individuale ai mondiali in Germania al 22° posto. Per lei comunque un bilancio di 4 medaglie, una del metallo più prezioso e 3 di bronzo. È stato il suo mondiale, ma non è finito come da favola sulle nevi. Lisa Vittozzi chiude la Mass Start, l'ultima gara individuale a Oberhof in Germania, al 22° posto. colpa di una giornata no al poligono. Perfetta nella prima sessione di tiro, la 28enne Sappadina ha commesso un errore nella seconda, due nella terza e altri due nella quarta e ultima prova in piedi. Errori che si sono tradotti in 5 giri di penalità, 1 km e 250 metri in più da percorrere. Oro ad Anna Öberg, Svezia. L'arrivo di Lisa Vittozzi però è comunque a braccia alzate, perché è stato un mondiale da 4 medaglie, tutte a squadre, in 6 gare complessive. Un ritorno e una consacrazione dopo un blackout durato 3 stagioni. Per la Vittozzi, biatleta in un paese di fondisti, una rinascita partita da Forni Avoltri, dal paese del suo tecnico Mirko Romanin, da quell'impianto di Piani di Luzza voluto 30 anni fa tra lo scetticismo generale, da dove poi sono stati costruiti i successi di oggi in una disciplina nuova per l'Italia. E per altre possibili medaglie, arrivederci al prossimo anno a Nove Mesto, Repubblica Ceca. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E Lisa Vittozzi è arrivata la scorsa notte a Sappada, appunto, dove tutto è pronto per la grande festa che il suo fans club ha organizzato per le 18.30 di oggi per celebrare insieme le sue imprese iridate. Ci avevano creduto fino all'ultimo, ma poi anche loro si sono dovuti arrendere alla giornata no di Lisa Vittozzi con un applauso di ringraziamento per un mondiale che rimarrà nella storia. Sono i supporters della Sappadina che ad ogni gara si riuniscono in questo locale a tifare per la loro beniamina, sorseggiando qualche calice di vino per stemperare la tensione della prova. Occhi puntati sulla TV ed un boato ad ogni colpo centrato con la carabina. Alla fine c'è soddisfazione negli occhi dei tifosi per i risultati ottenuti a Oberhof. 4 medaglie al collo in un mondiale sono un risultato straordinario. Oggi abbiamo messo solo i titoli di coda, era giusto per salutare la gente, però dopo 4 medaglie penso che possiamo essere più che orgogliosi. Non sono neanche deluso, perché comunque è stata una rassegna iridata molto soddisfacente, quindi oggi è andata così. Avremo altre occasioni. Ieri eravamo tutti emozionati, con le lacrime agli occhi, eravamo contentissimi. Oggi è andata come è andata, però è andata bene lo stesso. Ci spostiamo nell'albergo di famiglia, proprio davanti a quella pista dove la Vittozzi ha mosso i primi passi con lisci stretti. Troviamo nonna Lea, preziosa consigliera di Lisa. L'abbiamo sentita 2 o 3 volte, però era sempre tornata di o fotografi o qualcuno che la intervistava o comunque... l'abbiamo vista serena, gli abbiamo dato penso un po' di carica, insomma. Arriva pure il suo primo allenatore Nicola Sellenati, un abbraccio con amici e parenti, ora c'è solo da festeggiare. Fino ad ora ha raggiunto tanti risultati, ma credo che quello di ieri è stato un risultato magnifico, salire sul tetto del mondo non è cosa di tutti i giorni. Sappada, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel basket la Serie A è ferma per la disputa delle finali a 8 di Coppa Italia, senza la partecipazione della Pallacanestro Trieste, che sta testando il mercato per sostituire l'americano Gaines, che ha lasciato la squadra. Potrebbe essere vicino il ritorno di Sanders. Nella nona giornata di ritorno del girone rosso di Serie A2, l'Apuol Wild West Udine ha battuto Ravenna al Palacarnera per 73-62, con la quinta vittoria consecutiva in casa, ottenuta mantenendo il vantaggio per lunghi tratti della gara e ampliando poi il distacco dei romagnoli nel finale. Rafael Gaspardo, top scorer con 19 punti. Prossimo appuntamento domenica alle 18 a Chieti. Vittoria anche per la Gesteco Cividale, che dopo 3 stop consecutivi in trasferta ha superato Ferrara per 71-65. Il distacco dalla decima piazza in campionato si allunga a 8 lunghezze e oramai manca solo la matematica per ufficializzare la salvezza della formazione ducale. Calcio in Serie D, vittoria in trasferta per 1-0 del Chierlins Muzane a Villafranca con gol di Valenti nella ripresa. Pesante rovescio interno del Tor Viscosa, che subisce 5 gol dal Legnago senza segnarne nessuno. In classifica, dove comanda il Legnago, il Chialins è sesto con 33 punti, Tor Viscosa terz'ultimo a 22. Volley nella A2 femminile, la CDA Talmassons si è imposta in casa con un secco 3-0 alla Desimessina. Successo rimonta per l'Itas Ceccarelli Martignacco, che espugna il quinto set in trasferta all'Itas, il campo romagnolo dell'Omag Marignano. 110 concorrenti al via provenienti da Triveneto, Slovenia e Austria hanno partecipato alla scia alpinistica sul Var Most. La cronoscalata prevedeva 2 percorsi, uno riservato agli atleti tesserati Fisi e uno per gli Open che hanno raggiunto Malga Var Most. Nella gara Fisi, vittoria maschile per il cadorino Michele Darin, secondo Ruben Del Negro, terzo Marco Del Missier. Nella gara lunga, vittoria femminile per Cecilia De Filippo, seconda Martina Darin Zanco, terza Dimitra Teocaris. Nella gara storica, con arrivo a Malga Gavar Most, vittoria assoluta per gli sci alpinisti austriaci Marita Krön e Michael Steiner. Nella categoria Ramponcini, vittoria per Nicola Pais Bianco e Sara Knight. Nella categoria Ciaspe, vittoria per David Bianchini. Il trofeo del Memorial Claudio è stato vinto da Fabio Zannantonio del Soccorso Alpino di Forni di Sopra. E alle 7:48 minuti apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del Piccolo di Trieste. Cessione dei locali della Baia di Sistiana, titolari a processo per bancarotta, in 6 a giudizio, tra cui 3 membri della famiglia Fari. Per la procura di Gorizia, Coiba, Caravella e Cantera Caffè sono stati sottostimati. Le difese ribattono sulle operazioni, liquidazione legittima e necessaria, dicono. La tragedia dell'operaio morto annegato al Molo Settimo, la procura indaga per omicidio colposo. Introvabili per le piccole imprese quasi 400 profili professionali. Per Confartigianato servono fabbri, autoriparatori, termoidraulici, panificatori e anche contabili. La cronaca, aggredita e presa a morsi dal proprio cane, una 39enne mugesana è stata attaccata dal bull terrier con cui era a passeggio nel bosco. Ha subito lesioni a braccia e a gambe. A centropagina poi la fotonotizia, con il carnevale di Muggia, trionfa la Brivido, in migliaia per il grande ritorno della sfilata dei carri. Sul podio poi, fra le compagnie, la Trottola e le bellezze naturali, pienone di spettatori e allegria sulle tribune lungo il percorso. A Trieste, Piazza Unità e Servola invase dalle maschere nella domenica di festa, domani sfida tra i rioni. La giornata del personale sanitario apre la prima pagina del Messaggero Veneto, che in fotonotizia mostra la locandina della dunata degli alpini di Udine del prossimo maggio. Le due edizioni del quotidiano condividono poi le notizie di calcio, basket, biathlon e poi la storia del friulano Rino della Negra, emigrato in Francia nel 1920 e fucilato dai nazisti perché partigiano. Ora un'associazione chiede che venga sepolto nel Pantheon dei Grandi di Francia. L'edizione di Udine del Messaggero, per la cronaca, dà conto dei fatti di ieri, l'incidente di Tolmezzo di cui vi abbiamo dato conto poco fa, e poi un'attentata rapina a Campoformido e un furto d'auto sventato a Palmanova. L'edizione di Udine del Gazzettino apre sulla decisione dell'ente di decentramento regionale in merito ai vandalismi nelle scuole, che ora dovranno essere ripagati dai responsabili. Fotonotizia per gli esclusi dal bando regionale di sostegno per gli impianti fotovoltaici. Altro servizio, quello sui supporti della sanità regionale alle farmacie dei piccoli comuni. Spazio infine ai supporti per le imprese attivati dalla regione per mitigare i maggiori costi e i minori fatturati derivanti dal caro energia. Dalla piccola edizione di Gorizia e Monfalcone, a centropagina la fotonotizia, da Savogna Romance torna il carnevale dopo gli anni dello stop per la pandemia. Maschere e carri sfilano tra un tripudio di folla. Agli amici del Quaiat va il derby di Romance, il Joker di Mediazza si impone tra i carri. Dalle pagine della cronaca, l'ex ospedale sul confine diventa rifugio per balordi e vandali, intrusioni, fuoco e danneggiamenti. L'area abbandonata di via Vittorio Veneto viene violata di continuo da parte di vandali e balordi. Parcheggio gratuito al polo intermodale, è tutto fermo. Infine, dalle pagine di Monfalcone, spiaggia di Marina Giulia da rivedere, affidati i lavori e la gara sull'ingresso. Un progetto andrà a mettere ordine anche nell'area del parcheggio. Il capocronaca dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto informa sull'approvazione del progetto di riqualificazione di Corso Garibaldi, che sarà destinato a zona residenziale. Spazio poi all'aumento di abbandono rifiuti, a cui segue la crescita delle multe. Altro reportage, quello sui numerosi furti di biciclette in Piazza Libertà, nonostante le telecamere, che hanno portato all'avvio di controlli da parte della polizia ferroviaria. L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre sullo studio della Fondazione Think Tank Nord-Est di Mestre, che evidenzia gli alti costi amministrativi dei comuni con meno di 500 abitanti, costi pari al 50% del bilancio, con il rischio di bilanci in perdita. Fotonotizia per il carro di Carnevale di Maniago, ispirato a Cospito, di cui vi abbiamo appena detto. Da San Vito, le difficoltà organizzative della scuola primaria Moro, con classi con troppi pochi iscritti per il tempo normale e troppi invece per il tempo pieno. Dai quotidiani nazionali, la rubrica Ritratto d'autore del Corriere della Sera, firmata da De Stefano, parla oggi a piena pagina del calciatore friulano Tarcisio Burnic, deceduto nel 2021, già campione d'Europa nel 68 con la nazionale e vice campione del mondo negli anni 70. E ora qualche appuntamento di oggi, il libro di Marco Valle, Patria senza mare, perché il Mare Nostrum non è più nostro, una storia dell'Italia marittima, sarà presentato dall'autore a Trieste, allo Yacht Club Adriaco, in Molo Sartorio, alle 18.30. Nuovo appuntamento per il cartellone della rassegna lunedì dello Schmidl, questa volta dedicato ai Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini, a Trieste, al Teatro Schmidl, alle 17.30. L'associazione The Banfield, dedicata alla cura delle persone fragili non autosufficienti, ha in calendario l'incontro intitolato Consigli pratici per gestire l'emergenza, dedicato a casi di febbre, disidratazione, ipotensione e picchi glicemici, a Trieste in Casa Viola in via Filzi alle 17.30. Per gli spettacoli l'attore Corrado Tedeschi con la figlia Camilla saranno sul palco di partenza in salita a Prata di Pordenone al Teatro Pileo alle 21. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Wolf Evelindi che parlerà di sicurezza sulle strade. Alle 11.20 circa andrà in onda Tra le parole e il cuore, alle 11.55 Nel segno del segno. A seguire la nuova rubrica La mia casa e in compagnia dell'attrice Maria Amelia Monti. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30. A tutti voi l'augurio di un buon lunedì grasso. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.